Due parole brevissime, pre-introduzione alla serata. Intanto devo dire sono contento che un'assemblea affollata, e come si sono fatte altre volte qualche anno fa, e mi sembra un buon segno. Volevo segnalare che più o meno dalla sua fondazione, istituzione, l'archivio Moroni si è occupato di questioni carcerarie. E, se voi andate a vedere sul sito, c'è una sezione sull'abolizionismo che abbiamo fatto a partire dal 2004 con Ermanno Gallo e Vincenzo Guagliardo. Ermanno Gallo era un compagno milanese che ha lavorato in controinformazione, e, insomma, una storia lunga. Vincenzo Guagliardo era un compagno dell'EBR che ha in carcere, è stato molto attivo nella produzione di testi abolizionisti, è uno dei più importanti abolizionisti d'Italia, se non del mondo, una disciplina che in questo momento non è tanto in voga, diciamo, ma che un tempo lo è stata, e che dopo molti anni, dopo una lunga detenzione, è morto libero a Roma nel gennaio di quest'anno. Quindi volevo ricordarlo e comunichiamo con questo per la prima volta la sua collaborazione a questa sezione dell'archivio, perché fino ad allora, ad ora, diciamo, lui non voleva tendenzialmente apparire, perché non gli sembrava opportuno, non perché avesse dei problemi di altro genere. E basta. L'argomento lo sapete, l'urgenza del momento è dettata da questo imminente rinnovo, proroga, supposta proroga, scadenza, ecco, possiamo chiamarla, dei 4 anni di 41 bis per Alfredo. Con Alfredo abbiamo fatto tante assemblee qua, e poi, insomma, sono successe tutte le cose che voi sapete, inutile che ve lo stia a ricordare. La proroga in questo caso viene fatta la prima volta ogni 4 anni e poi dopo va di 2 in 2. Se voi andate a vedere le statistiche, le applicazioni del 41 bis sono il più delle volte prorogate, cioè è molto raro che dal 41 si esca, non impossibile, ma è molto raro. Considerando che i detenuti nel regime di 41 bis in questo momento sono all'incirca 750, se anche vogliamo supporre che la proroga venga data ogni 4 anni, dobbiamo pensare che ogni 2 giorni un detenuto al 41 bis viene prorogato. Ogni 2 giorni viene data la proroga a questa forma afflittiva di detenzione, che è una specie di condanna senza processo, senza sentenza, perché è un provvedimento amministrativo, come immagino voi sappiate, per cui si può andare al 41 bis anche quando si è in custodia cautelare senza avere subito ancora alcun processo. Basta, io finisco qua, do la parola a Stefania e poi sentiamo i compagni di Roma. Ciao a tutte e a tutti. Intanto ringraziamo questo spazio perché ha sempre dato ospitalità anche durante i 6 mesi di sciopero della fame di Alfredo. Le mobilitazioni che abbiamo fatto sono state spesso organizzate qui o in panetteria, però insomma questo spazio ha sempre dato ospitalità per organizzare, per parlare del 41 bis, di Alfredo e anche come stava dicendo Tommaso, sembra che sia dato per scontato che, se si leggono i media in questi giorni, sembra che sia dato per scontato il rinnovo, sebbene per Alfredo, che viene fatto ogni 2 anni, non ogni 4 anni. Ci sono i primi 4 anni, poi dopo viene rinnovato di 2 in 2. E sembra che sia dato punto per scontato, anche gli avvocati non è che si aspettino molto di diverso, sebbene pure anche la DNAA, cioè la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, avesse già espresso un parere favorevole alla detenzione di Alfredo in AS, in alta sicurezza, quindi non necessario il regime di 41 bis, e anche se al processo di Sibilla, che era quello che faceva insomma un po' da traino per le motivazioni per metterlo 4 anni fa in quel regime, lui è stato assolto, quindi non ci sarebbero proprio ragioni. Però di questo ci occuperemo un po' più tardi, abbiamo anche i nostri avvocati Margherina Tappellazza e Benedetto Ciccarone che ci parleranno di come avvengono i rinnovi. Abbiamo un intervento della Maria Teresa Pintus breve, che è l'avvocata di Alfredo da Sassari, che anche lei ci dirà come avvengono questi rinnovi. E poi sì, dice, per quanto riguarda insomma la situazione di Alfredo, anche lì ci dirà qualche cosa rispetto ai ricorsi che ha fatto ultimamente per la questione legata soprattutto ai libri. Volevo solo ricordare che Sara e Alessandro erano morti veramente da poche ore, che già i media di regime avevano titolato come i due appartenenti al gruppo Cospito. Ovviamente non esiste nessun gruppo Cospito, gli anarchici si sa da secoli che non hanno capi e non li riconoscono, però che cosa ci vogliamo aspettare dai giornalisti, vedendo quello che hanno combinato in questi 2 anni e mezzo di genocidio in Palestina, come si sono asserviti alla propaganda sionista, e quando non hanno potuto proprio sostenerla così sfacciatamente riducono la portata degli orrori che accadono a Gaza e in Cisgiordania, in Libano, in Iran. Lo sapete tutti come si stanno comportando, quindi non c'era nulla da aspettarsi di buono da quello. E mancano completamente di etica, e in questo momento mi viene in mente, non in questo momento, cioè pensando alla serata, mi è venuta in mente una delle frasi che è stata più riportata anche dopo la loro morte di Sara, che nella dichiarazione spontanea al processo Sibilla, che diceva che esiste una grandissima differenza tra la violenza degli oppressi e quella degli oppressori. La violenza degli oppressi ha un'etica, quella degli oppressori non ne ha affatto. E anche in questo caso, appena due compagni si erano veramente appena morti, accanirsi, sfruttarli in questo modo è stato veramente una questione senza etica. Scusatemi, infilo gli occhiali altrimenti non leggo quello che ho scritto. Allora, abbiamo pensato di fare seguire immediatamente all'introduzione l'intervento da Roma per la presentazione della manifestazione di sabato 18, che per Alfredo è contro il 41 bis, come l'assemblea di stasera, che è stata pensata da questa assemblea allargata, cioè insomma assemblea lombarda contro il 41 bis, che viene da incontri che stiamo facendo a Olga, che penso conosciate tutti, l'opuscolo che esce da una 20 anni, che raccoglie le lettere dei detenuti e manda in questo opuscolo articoli che pensiamo possano interessarli per rompere un po' la divisione tra fuori e dentro e riuscire a spezzare questo muro per un po'. E stavo dicendo che questa assemblea è stata decisa insieme ai compagni e alle compagne delle altre province lombarde, e come sempre accade poi quando si tratta di Alfredo e 41 bis la partecipazione è molto alta, quindi questo riempie, cioè, sicuramente merito suo per come ha condotto lo sciopero della fame, e quel poco che possiamo merito di chi ha cercato di mettere in campo quello che si poteva fare. Subito dopo la presentazione della manifestazione di Roma, che appunto facciamo subito per evitare che i compagni da là debbano aspettare i nostri tempi, si possono insomma scollegare quando vorranno. Dopodiché ci sarà la presentazione di una fanzine che è stata scritta a Bologna sui sei mesi di sciopero della fame di Alfredo, che ci verrà illustrata dai compagni che ho qui a fianco. E presenteremo anche poi, momento importante è questa idea di raccogliere le motivazioni che vengono adotte per il rinnovo del 41 bis. abbiamo gli avvocati che ci parleranno, credo, soprattutto di quello che è avvenuto in questi più di 20 anni per i compagni delle BBR, e abbiamo un piccolo intervento della Pintus dalla Sardegna. Lei poi è interessata al progetto di raccogliere più materiale possibile rispetto appunto a queste motivazioni per farne anche una pubblicazione, perché sarà importante fare anche conoscere, anche magari come controinformazione, come si diceva un tempo, come avvengono questi rinnovi, per far sapere, parlare ancora del 41 bis, di che cos'è, ma soprattutto come viene poi inflitto a chi ci si ritrova dentro, senza tanti riguardi, viene sì, più spesso, cioè, con le motivazioni veramente più assurde, e anche se poi si fa ricorso, l'unica magistratura di sorveglianza adesso quando viene impugnato il rinnovo del 41 bis è Roma, cosa che prima non era così, c'era un po' più di speranze, ma adesso è tutto accentrato in quella città, in quella magistratura. E poi parleremo di un'iniziativa che vorremmo fare. L'idea era quella di farla il 4 maggio, che è la giornata in cui Alfredo era stato messo 4 anni fa, forse era il 5, ma comunque la faremo il 4 maggio in Piazzale Cadorna, portando materiali, interventi e tutto quello che magari, anche idee che possono uscire stasera da qua. Poi erano stati anche invitati i giovani palestinesi per parlare dei prigionieri palestinesi, non so se arriveranno, comunque almeno ricordiamo la legge che è stata approvata dalla Knesset sulla pena di morte esclusivamente per i prigionieri palestinesi, quell'odioso personaggio di Ben Gvir, quel colono maledetto ministro della sicurezza nazionale, si è espresso in questi termini: abbiamo tolto tutto ai prigionieri palestinesi, ora vogliamo togliergli anche la vita. E a questo proposito ricito un momento per Sara e Alessandro, cioè quando ci hanno impedito di fare la commemorazione per 2 compagni morti, che poi l'abbiamo fatto ugualmente in strada e comunque eravamo tutti lì, e c'è uno striscione che recita: un giorno si deve pur morire, ma tutti gli altri si deve vivere. Quindi questo proprio ricordo al coraggio, alla generosità di questi 2 compagni e tutti noi forse, no? Che continuiamo a insistere e a lottare. Penso di aver detto tutto quello che avevo in mente, quindi a questo punto proviamo a collegarci con Roma, direi, vero? Ci mancava qualcosa? Siamo tanti, comunque usiamo il microfono perché la serata va in streaming ed è registrata, quindi anche se ci dovessero essere poi gli interventi dopo, l'invito è quello di usare questo microfono. Faccio? Sì. Ecco, ciao. Ci stai parlando tu, allora. No. Ciao. Ecco. Mi sentite? Sì, sentiamo, sì. Ecco, ok, allora se... Se tu vuoi puoi dirci cosa avete pensato, deciso all'assemblea, c'è solo una R, all'assemblea del 10 e illustrarci insomma un po' quello che avete in mente per la giornata. Ti ascoltiamo. Allora, sì, intanto insomma vi ringraziamo tutti e tutte da Roma per questo collegamento, insomma... siamo contenti e contente che un po' di invito a mobilitarsi assieme nelle varie città sia stato un po' raccolto. Questa è una delle tante iniziative che sono state fatte un po' nelle ultime settimane per lanciare questi appuntamenti in strada contro il 41 bis qua a Roma. Insomma, un po' come assemblea ci tenevamo a riportare un po' di ragionamenti che ci hanno portato fin qui. Di base sì, l'idea di questa mobilitazione di tornare in strada contro il 41 bis a fianco di Alfredo nasce ovviamente, penso un po' come tutti e tutte sappiano, dal fatto che a breve verrà rinnovata con molta probabilità la posizione di Alfredo Cospito al 41 bis. E ovviamente sappiamo che questa responsabilità è tutta politica e che non più in persona, in questo caso dovrà prendersi questa responsabilità. E, diciamo, il ragionamento che è stato fatto un po' ai tempi è che, vista l'importanza della mobilitazione che è avvenuta qualche anno fa, visto che appunto Alfredo con molta probabilità non riuscirà a fare un altro sciopero della fame, diciamo, la responsabilità di non far passare questa vicenda nel silenzio era tutta nostra, insomma, di compagni e compagne che si sono mobilitati anni fa e che insomma un ragionamento su questo aspetto andava fatto. Di conseguenza l'idea di provare a organizzare una mobilitazione degli appuntamenti strada per appunto, come un po' dicevo prima, non far passare nel silenzio questa firma, questo rinnovo. Diciamo che questi erano un po' i presupposti di provare a riorganizzare un momento qua a Roma. Si potrebbe ovviamente parlare dell'importanza che c'è la mobilitazione di qualche anno fa un po' in tutte le città, qua a Roma in modo particolare, perché crediamo che abbia generato comunque diverse situazioni collettive che tuttora oggi sono in piedi, quindi viene un po' da sé il ragionamento che ne è conseguito. Quando è stato pensato questo appuntamento, ovviamente era un momento ben diverso da quello che c'è ora. Era un momento in cui di Alfredo ovviamente non se ne parlava più nel dibattito pubblico, anche il 41 bis insomma continuava a essere un po' un tema che rimaneva là nei ricordi della mobilitazione passata da un lato, dall'altro lato ovviamente nel come la repressione ha agito un po' negli ultimi tempi diciamo le varie misure repressive che ne sono venute dopo appunto proprio quella mobilitazione. Quindi anche questi sono tasselli che hanno un po' spinto a provare a riorganizzare dei momenti strada, riprendere parola, organizzare appuntamenti collettivi e così via. Come dicevo prima, ai tempi non si parlava di questa situazione, quindi il primo obiettivo un po' che si era individuato era far sì che appunto non nulla passasse nel silenzio, e di lì insomma l'idea di fare una serie di chiamate, tendenzialmente un paio di chiamate per arrivare poi a un momento di manifestazione in strada in città. E per riportare un po' le fila del ragionamento, la prima chiamata è stata fatta proprio nel centro di Roma, un po' i primi manifesti che sono girati, infatti convocavano una piazza che erano proprio nel centro di Roma, e questo era un po' appunto per comunque porre l'attenzione su questo tema, confidando nel fatto che tendenzialmente se oggi fai una chiamata nel centro di una città si scatena ovviamente il panico morale che insomma possiamo ben individuare un po' dalla propaganda del potere, il giornalismo, il dibattito pubblico, insomma sono tutti elementi che noi individuiamo come appunto è importante che di questa vicenda se ne parli ed è importante che prendiamo parola. Nel tempo sono successe non poche cose, insomma da quando è stato individuato questo primo obiettivo. Ovviamente è un elemento che ha cambiato un po' le carte in tavola sicuramente appunto la morte dei nostri due compagni Sara e Sandro, e un po' quello che ne è conseguito qua a Roma, come immagino un po' tutti e tutte sanno, ci sono state delle giornate importanti rispetto a ciò, per ricordare i nostri compagni e per mettere anche un altro tassello la giornata che era un po' è stata individuata come momento di ricordo per i compagni, è finita con 91 fermi preventivi, comunque un corteo, una manifestazione che si è svolta in città, insomma una giornata lunga di lotta, e un po' diciamo il fatto in sé, ovvero che venissero a mancare i due compagni per delle pratiche di lotta, e quindi il dibattito che si è generato su questa roba, un po' il fatto che i 91 fermi preventivi in un clima generale come quello a cui stiamo assistendo, che stiamo vedendo, sicuramente preparato negli anni ma che si sta affinando molto di più, anche questo è stato diciamo ovviamente un elemento che ha condizionato il dibattito pubblico. E insomma arriviamo un po' alle ultime settimane in cui tendenzialmente se l'obiettivo iniziale di queste chiamate era il fatto che bisognava parlare di questa faccenda. Ora quello un po' che si ragionava è che della faccenda del 41 bis, che della situazione di Alfredo, di tutto quello che poi a cascata ne consegue, tendenzialmente si è stato forse anche troppo male, se leggiamo un po' quello che si dice sui giornali, le prese di parola pubbliche. Quindi da lì, ecco, l'esigenza ad oggi, che è stata un po' ribadita a questa assemblea a cui si faceva riferimento all'inizio, ovvero quella del 10 aprile, è appunto in linea con quello che si pensa sia più importante fare ora. Quindi, piuttosto che una chiamata che attiri tanta attenzione in un centro di Roma, che comunque comporta delle situazioni che possiamo poi immaginare, piuttosto, diciamo, l'esigenza che è stata raccolta da questa assemblea pubblica molto partecipata che c'è stata il 10 aprile è quella proprio di, anzi, prendere parola, iniziare a parlare in maniera molto più chiara di quello che si può leggere nei giornali, di tutto ciò che compete 41 bis, la situazione di Alfredo e di conseguenza anche ciò che si è scatenato attorno a Sara e Sandrone, e quindi l'idea di fare una manifestazione, di stare in strada in tempi in cui comunque nulla è regalato ma è tutto da conquistarsi centimetro per centimetro, ovviamente ciò che corrispondeva un po' più alle esigenze dei compagni e delle compagne, almeno qua che stanno ragionando questa cosa qua a Roma. E quindi niente, il 18 aprile ci sarà questa manifestazione che passerà per diversi quartieri. L'idea è quella di stare in strada in un momento in cui ciò che viene attaccata non è solamente l'agibilità politica dei compagni e delle compagne anarchici e anarchiche, ma è ovviamente, come si è detto, la mobilitazione di qualche anno fa, come si dice da sempre, è una cosa che riguarda tutti e tutte, e che proprio in quest'ultimo periodo, in un contesto ovviamente di guerra che si fa sempre più evidente, sempre più chiara, e quindi di conseguenza si fa sempre più chiara. Lo Stato vuole serrare i ranghi e vuole reprimere gli spazi di libertà. Ecco, crediamo che questa chiamata, che parte ovviamente da una situazione specifica, in questo caso il compagno anarchico detenuto al 41 bis, continua a essere una situazione che parla di tutti e tutte, e che quindi al di là della partecipazione al corteo del 18 aprile, che è uno dei tanti strumenti, crediamo, ecco, che ognuna si deve fare un po' carico di carico di un pezzo di questo puzzle, provare a prendere parola come meglio si crede, insomma, rompere il muro del silenzio che lo Stato vorrebbe imporre per normalizzare ovviamente la sua violenza. Questo è un po' il ragionamento in finale che ci sentivamo di condividere e di rilanciare a un po' tutti i compagni e le compagne. Grazie, e adesso magari sentiamo se c'è qualche cosa che qualcuno ti vuole chiedere per Roma, c'è qualche domanda? Va bene, quindi tu confermi allora che è un corteo, perché quando siamo venuti a Roma dicevano che c'era anche il dubbio se proprio chiamare il corteo, infatti anche l'idea di chiamare la manifestazione era stata un po' per tenerlo generico, quindi l'idea è quella di un corteo. L'obiettivo sì è di stare in strada e di fare una manifestazione, insomma, anche per questo motivo ovviamente ragionamenti sulle varie piazze di convocazione, no? Insomma, si è fatto un ragionamento un po' più diverso, proprio perché l'obiettivo è passare in dei quartieri, comunque fare un corteo comunicativo che riesca a prendere parola, insomma, quindi questo è ovviamente l'obiettivo, e pensiamo che ci si giochi proprio l'agibilità politica nel portare a termine questo obiettivo, cioè che non deve essere possibile che la vicenda dei 91 fermi preventivi crei un precedente più di quello che già è, insomma. Ok, però sì, là poi comunque era vietata questa. Non vi è arrivato niente, insomma, a proposito di vieti o cose varie, no? No, su questo niente, sono anch'io d'accordo sul fatto che quella fosse ovviamente una questione specifica. Ovviamente se la mettiamo in un contesto generale, siamo in un contesto generale di repressione dei spazi di libertà, di agibilità politica, eccetera, eccetera. Quella sicuramente era una situazione specifica al momento, cioè, la nostra scommessa è che quel giorno saremo in piazza in tanti e tanti, faremo una manifestazione, parleremo con chi incontreremo, insomma, questo sì, confermiamo che questo è l'obiettivo. Va bene, allora se magari in finale ripeti bene l'orario e la piazza e poi ti certo. ringraziamo se non c'è nessuno certo. che... Allora, la chiamata è alle ore 18 a Piazza dell'Immacolata nel quartiere San Lorenzo. Giusto così per condividere anche il tassello, il giorno dopo, domenica 19, alle ore 15, a Piazza Bocca della Verità c'è un altro corteo che ovviamente si tiene insieme a quello che accade il giorno prima, che è per la giornata dei prigionieri e delle prigioniere palestinesi sulla questione della pena di morte. Quindi insomma in questi giorni a Roma si proverà a tenere insieme questi due aspetti che ovviamente si tengono insieme da sé, però ecco un po' stiamo provando cioè, a dirlo sempre più esplicitamente, quindi sia sabato 18 che domenica 19 saremo in piazza contro il 41 bis, contro la pena di morte e tutto ciò che appunto ne consegue un po' cascata. Questo anche un po' me l'ha ricordato, però, per chi potrà fermarsi a Roma un paio di giorni. La piazza del secondo qual è? Non ho sentito questo. Non ho sentito bene? Chiedevano la piazza del secondo, qual è? Del 19. Allora, alle ore 15 a Piazza Bocca della Verità. Ah, ok. Tu volevi chiedere? Sì, no, io volevo farti una domanda, cioè sapere com'era andato invece il presidio fuori dal Ministero di Giustizia, che era uno degli appuntamenti, okay. insomma, in preparazione, sì, diciamo, al 18. Grazie per la domanda, perché mi sono scordato di menzionare questo passaggio. Allora, insomma, parte dal 10, cioè il 10 c'è stata una buona partecipazione, comunque 150-200 persone in piazza ci stavano per l'assemblea pubblica. Il giorno dopo ovviamente era un orario un po' più scomodo, comunque in un luogo molto centrale, cioè sotto il Ministero di Grazia e Giustizia, ovviamente non si faceva affidamento un po' sugli stessi numeri, però comunque una cinquantina di persone c'erano, il primo pomeriggio di sabato, la guarella, e ovviamente si è potuto tenere quell'appuntamento per evidenziare la responsabilità politica che c'ha il Ministero della Giustizia sul rinnovo del 41 bis ad Alfredo. È un presidio che comunque è andato bene, ci cioè sono stati più o meno un'oretta di interventi, sono intervenuti anche di insomma, una realtà palestinese nello specifico per un po' riportare quello che vi dicevo prima, ci sono stati comunque sì, diversi interventi, ovviamente era un contesto ben diverso da quello dell'assemblea pubblica del giorno prima, era in una zona centrale di Roma tendenzialmente attraversata da turisti, c'erano appunto turisti, giornalisti e spiriti, quindi non era ovviamente, però cioè, si è comunque stato un buon livello di comunicazione, c'era insomma, un'insoddisfazione rispetto a quella chiamata, che anche quella insomma non pensavamo fosse regalata. Però. Va bene, grazie allora. Ci si vede a Roma. Vi ringraziamo, ci si vede a Roma. Ciao. Buona notte a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao a tutte. Noi presentiamo una fanzine, questa, che si chiama Sbilancio, parole e immagini di una lotta ancora da finire contro il 41 bis e l'ergastolo. La trovate là dietro sul tavolo in un po' di copie. E, questa fanzine è nata da un'assemblea di persone imputate e solidali. Persone imputate per cose successe nell'ambito della mobilitazione in solidarietà ad Alfredo e contro il 41 bis a Bologna e niente, tra di noi ci siamo chiesti come riportare il discorso sul 41 bis, sulla lotta ad Alfredo, sul rinnovo del 41 bis Alfredo all'ordine del giorno, e ci è venuta l'idea di questa fanzine in cui ci sono dei pensieri, delle riflessioni su quel periodo, su come varie persone se lo sono vissuto, su quello che varie persone ci hanno messo. C'è una cronologia di tante cose, un po' di cose successe in Italia e a livello internazionale, e ovviamente un po' più incentrata su Bologna, ma direi che il pensiero è... Cioè, tutto il discorso è espandibile rispetto a quello che è successo in Italia e nell'ambito internazionale. E, quindi le tematiche sono queste e la repressione che è seguita a quella lotta, per cui in praticamente ogni provincia d'Italia ci sono procedimenti aperti con reati di 270 e imputati a un sacco di persone. Rispetto al processo di Bologna, è partito dal giugno di quell'anno con una richiesta dei RIS, dei ROS, di fare delle analisi del materiale rinvenuto nel luogo in cui è successo uno dei fatti di cui siamo imputati all'interno di quel processo, che è un'antenna che è stata bruciata in solidarietà ad Alfredo. E gli altri due fatti che sono in quel processo sono l'interruzione di una messa e l'occupazione di una gru. Altri fatti, il tentativo di incendio di alcuni mezzi della MAR, che è un'azienda che dà i pasti in carcere, e un blocco stradale con dei cassonetti in fiamme. Questi fatti sono stati degradati, non sono più nel processo, ecco. E dopo quel prelievo di DNA da questo accendino che era stato ritrovato sul luogo, qualche mese dopo l'operazione è diventata più ampia, 19 persone sono state coinvolte. Per queste 19 persone è stato richiesto il prelievo di DNA, visto che era stato preso del DNA da un accendino, e che è diventato un prelievo di DNA coatto, quindi sono andati a prendere la gente al lavoro, a casa. Alcune persone lo hanno dovuto dare, altre persone sono riuscite a non darlo. Adesso ci troviamo con la terza udienza, che sarà il 18 maggio, e nella seconda udienza il giudice ha accettato la lista dei testimoni che avevamo portato, tra cui c'è anche Alfredo, per cui il 18 ci sarà la testimonianza di Alfredo in videoconferenza, ovviamente, che era una dei punti che volevamo portare, cioè portare appunto di nuovo la lotta di Alfredo, che se ne parlasse, e dare voce a questo compagno che ha portato avanti quella lotta. E niente, quindi il 18 ci sarà, verrà sicuramente chiamato qualcosa. Ancora non abbiamo delle notizie più chiare, perché dobbiamo ancora vederci e discutere fra di noi, però daremo degli aggiornamenti rispetto a questo. E altra notizia positiva, per un altro corteo che c'era stato a Bologna, sempre in gennaio del 2024, settimana scorsa c'è stata l'assoluzione da parte del GIP di tutte le persone coinvolte, che erano 16, e basta, io direi. Ho già detto quello che dovevo dire io, però, quindi come facciamo? No, forse aggiungerei due cose sul senso di questa fanzine. Quindi appunto sì, sicuramente come veniva detto, di fatto penso che ovunque, come ovunque in Italia, insomma, il periodo della mobilitazione sia stato seguito a, insomma, delle repressioni, quindi a dei processi, a dei procedimenti. Qui a Milano, insomma, lo sapete più che bene, con le condanne tutt'altro che leggere per il corteo. Domani ci sarà probabilmente la sentenza per Siti, per il corteo che c'era stato a Torino, insomma, durante appunto la mobilitazione, per cui sono stati chiesti tantissimi anni per devastazione e saccheggio. Quindi diciamo, quella di Bologna non è sicuramente un'esperienza particolare da questo, isolata sì, o eccezionale da questo punto di vista. Sicuramente il tentativo, diciamo, di questa fanzine, che penso sia insomma, un ragionamento che in generale viene fatto, è quello anche un po' di far sì che la repressione non ci affossi, ma possa essere anche un'occasione, no? di rilanciare, di tornare sui punti che ci avevano portato in strada, che ci avevano portato in determinate situazioni. E secondo me, nello specifico della mobilitazione d'Alfredo, per quello che ha significato sia come vissuto, sia come appunto relazioni che si sono create in quel contesto e che ancora resistono, c'è sicuramente anche da parte nostra una sorta di, come dire, discreto vaffanculo rispetto al fatto che non rimanga tutto nelle carte dei tribunali, rispetto al vissuto e alla lotta di quel periodo e a quello che si è messo in campo. E rispetto alla testimonianza di Alfredo, forse quello che aggiungerei è che la richiesta di chiedere Alfredo come testimone è frutto di ragionamenti collettivi fatti con compagni e compagne che hanno cercato di continuare a tenere le fila diciamo, dei rapporti e delle relazioni, insomma, tessute durante quel periodo, e quindi il tentativo di cercare nei vari processi d'Italia sia di insomma, fare delle dichiarazioni che ricordassero perché si era in quei tribunali e cosa si stava portando avanti e che ce lo in qualche modo rivendicavamo, la scelta di aver preso parte a questo momento di mobilitazione, e anche il tentativo di chiedere Alfredo come testimone, soprattutto perché è l'unico modo per come funziona il 41 bis, per come è strutturato, per permettere ad Alfredo di tirar fuori la sua voce da là. E quindi in altri casi è successo anche che a Roma venisse accettato per un processo per gli striscioni fuori che erano stati esposti all'altare della patria, non è detto che poi effettivamente in quel caso testimonierà. Immaginiamo che invece a Bologna succederà, dato che la giudice si è addirittura riservata per pensarci se accettare la testimonianza o meno. L'unica udienza che è stata fissata è quella del 18, non è detto che sarà effettivamente in quell'occasione che Alfredo prenderà parola. Quindi valuteremo, secondo me, se chiamare qualcosa o meno, anche per evitare di no, inibire eventualmente che questa cosa accada, anche perché non è assolutamente detto che ci faranno poi entrare, quindi anche l'opportunità sia di farci sentire, eccetera, eccetera. Considerato che nell'udienza preliminare, dove è stata fatta la dichiarazione ed è stata chiesta appunto la testimonianza di Alfredo, sono state fatte entrare solo pochissime persone oltre agli imputati, quindi insomma chiaramente lo faremo sapere. E niente, io penso che un po' anche il fatto che questa fanzine sia stata pensata a ottobre, quindi nel momento in cui le piazze erano molto calde fortunatamente appunto sulla questione della Palestina, fosse stato un po', cioè il senso, penso anche un po' il tentativo di dire che probabilmente se i numeri, no, delle piazze, delle masse che hanno fortunatamente sono scese in strada per quello che stava succedendo in Palestina non sono paragonabili magari a numericamente a quello che è successo per Alfredo, però che sicuramente un po' lo spirito del fatto di, insomma, di sentirsi un po' piccoli di fronte a delle sfide enormi può essere sicuramente colmato dalla volontà, dalla fantasia e dalla generosità, visto che è un tema recente, insomma è ben sentito, visto i compagni, anche di singole individualità o di due amici o di tre amici, e che sicuramente questo spirito è la base per poi arrivare a riempire magari delle piazze, eccetera, che non sono necessariamente l'obiettivo quando le cose sono sentite. Penso che un po' il messaggio che si è voluto dare è stato questo. Voilà. Abbiamo tante cose stasera, per fortuna. Adesso sentiamo due interventi brevissimi di Maria Teresa Pintus, come avevo detto prima. Una su Alfredo in particolare, e l'altra che introdurrà l'intervento dei nostri avvocati che abbiamo qui stasera riguardo alle motivazioni cui facevo cenno prima per i rinnovi. Quindi così prima l'uno su Alfredo in particolare, poi l'altro, e dopo diamo la parola o a Margherita o a Benedetto, non so chi è che si avvicinerà. Per quanto riguarda il allora Stefania, giusto così per parlare, quindi per quanto riguarda il caro Alfredo, ti comunico che ancora ovviamente non è arrivato niente, mo verifico quando è esattamente la data per il 41, dopodiché ti faccio anche sapere però che noi stiamo sempre battagliando per quanto riguarda la questione dei libri. Ultimamente siamo riusciti ad avere un provvedimento positivo in primo grado che riguarda appunto la possibilità che lui possa acquistare 4 libri. Poi abbiamo avuto l'impugnazione in primo grado, andiamo in secondo grado, abbiamo avuto l'impugnazione, cioè abbiamo avuto ovviamente il provvedimento positivo. Peccato che oggi mi è arrivata il ricorso per Cassazione dell'Avvocatura dello Stato, che ritiene che i libri che lui ha chiesto e che comunque non fosse, quel provvedimento non poteva essere messo da parte della magistratura perché non rientra in un diritto, non rientra in questo, non rientra in quell'altro. Fondamentalmente stanno facendo di tutto e di più per evitare che lui acquisti dei libri che sono in libero commercio, ovviamente, non è che sta chiedendo chissà che tipo di libro. E quindi siamo sempre su questo andazzo. Vabbè, aspetta che verifico quando c'è stato il decreto, così veniamo un attimino, ti dico esattamente che data è il decreto del 41 di Alfredo. Allora, l'hanno emesso esattamente il... Allora, lui gliel'hanno notificato il 5 maggio, quindi non è proprio il 2 maggio, però sicuramente l'anticiperanno, figurati, se proprio glielo devono rinnovare. Ecco, questo è il primo. Adesso do il secondo. Volevo dire due parole di premessa su questo. Cioè, la questione del rinnovo è una questione molto delicata. Il 41 bis è previsto come un dispositivo che per l'appunto è una sentenza senza condanna e senza processo, che ha lo scopo di impedire alla persona detenuta di mantenere contatti con la sua organizzazione. La carattere di pretestuosità di questo dispositivo, di questa argomentazione, è molto evidente nei dispositivi. Ci sono, Stefania prima parlava di Alfredo e quindi del fatto che lui non ha capo di nessuna organizzazione. Ci sono i detenuti brigatisti, la cui organizzazione non c'è più, cioè è inattiva da un enorme, e la cosa è spesso riconosciuta nelle carte. Però per cui il dispositivo viene rinnovato lo stesso. In un recente collegamento altro che avevamo fatto con Maria Teresa Pintus, lei ci raccontava di detenuti al 41 che sono in stato di completa demenza, per età, gente che sono 30 anni che è in quelle condizioni e che quindi non avrebbero la possibilità neanche materiale di entrare in contatto con un'organizzazione, fosse anche se questa ci fosse. Ecco, quindi diciamo la questione del rinnovo non è marginale, al di là di quello che succederà il giorno 5. In generale è una questione abbastanza cruciale perché palesa la debolezza dell'argomentazione che sostiene tutto il dispositivo. Basta, mando la contributo. Allora, guarda, ti mando magari un vocale che faccio prima. Io, come ti dicevo, le motivazioni con le quali rinnovano e prorogano il 41 non ce li ho, nel senso che non esistono delle motivazioni. Esiste il decreto di rinnovo, il decreto di proroga del regime della sottoposizione dei detenuti al regime del 41 bis e niente di più. Il decreto di rinnovo, quindi di proroga del regime della sottoposizione, quindi del regime del 41 bis al detenuto, che a cui ovviamente è già stato applicato, si basa esclusivamente su quelle che sono le informative della DDA, DNA, DIA, del Comando Provinciale ovviamente dei Carabinieri e eventualmente del Ministro dell'Interno, niente di più, ed è la stessa cosa, identica, tranne che cambiano ovviamente le date, perché la data del primo è quella di 4 anni prima, quella del secondo, dal secondo a partire sono ogni 2 anni, la data di applicazione, e cambia anche quella che è eventualmente la posizione giuridica del soggetto, perché magari prima poteva essere appunto in custodia cautelare, perché come ti ricordo il regime del 41 può essere applicato anche chi in custodia cautelare, quindi non è condannato, quindi può essere magari che da custodia cautelare è diventato definitivo, da definitivo magari ha avuto anche delle continuazioni, quindi ha avuto un altro definitivo, quindi solo questo cambia. Poi ovviamente all'interno cosa inseriscono? Inseriscono delle operazioni di polizia che vengono fatte sul territorio di appartenenza del detenuto, giusto per ricordare o per far sì che ci sia un'attualità della sua pericolosità, cosa che in realtà non è, capiamo bene, perché è evidente che se io Se io ovviamente sono stato arrestato nel 2000 e tu mi riporti delle operazioni di polizia che sono state fatte dal 2000 in poi, dove io non rientro mai in nessuna di queste, anche se fanno parte ovviamente, cioè se sono state fatte nel territorio di origine, quindi se io nasco a Sassari, quindi quelle sono state fatte nel territorio di Sassari o addirittura nel territorio della Sardegna, e io però non rientro mai perché non vengo neanche nominato né come imputato né come addirittura indagato, loro per mantenere però viva l'attualità e l'attualità, quindi il requisito dell'attualità e della pericolosità del soggetto, inseriscono questo dicendo che comunque nel territorio ci sono ancora dei problemi, e siccome ci sono questi problemi e lui non si è dissociato, non ha collaborato, eccetera eccetera, allora a quel punto deve essere comunque rinnovato tutto. Questo è, quindi ti ripeto, delle vere e proprie motivazioni non esistono. La parola a Benedetto. Buonasera a tutti. E mi ricollego a quello che ha appena detto, che è stato appena detto nell'intervento di Maria Teresa. Mi sono portato un rinnovo, perché si diceva che delle vere motivazioni non ci sono. Ci si basa spesso sul fatto che non si è dissociato, sul fatto che ci sono ancora dei problemi nel territorio. Effettivamente io prima di oggi non è che avessi fatto una lettura particolarmente approfondita di questi rinnovi, li avevo un po' sfogliati. Adesso, in vista di questo incontro, li ho guardati un po' meglio. Non proprio approfonditamente, perché purtroppo il tempo è sempre tiranno, però li ho guardati un po' meglio ed effettivamente ci sono tutte questi elementi, ma ce ne sono anche alcuni che colpiscono ancora di più, perché quello che mi ha colpito particolarmente a livello generale è che io pensavo che in queste motivazioni ci fossero dei riferimenti stereotipati al fatto che uno può continuare a mantenere con le organizzazioni di appartenenza dei contatti, anche se chiaramente motivazioni fuffa, così, cioè buttate lì tanto per dire qualcosa. Ed invece ci sono dei riferimenti messi a pertis verbis in queste carte che sono assurdi, perché non sarebbero da inserire nemmeno in dei provvedimenti chiaramente sforniti di motivazione, perché sono dei riferimenti, adesso poi ve li leggerò, a delle cose che lasciano veramente perplessi. Adesso non anticipo nulla. La prima cosa che volevo ricordare, è stato detto più volte che insomma il 41 bis mira a impedire i contatti tra la persona detenuta e i sodali del gruppo di appartenenza, ma volevo leggere proprio il testo della norma, perché questo è abbastanza interessante, detto in modo più preciso. E dice: la proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuta conto anche del profilo criminale, della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del solazzo criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce di per sé elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o il dimostrare il venir meno della operatività della stessa, che è esattamente poi quello che è l'argomentazione sulla quale vengono basati tutti i rinnovi. Il mero decorso del tempo non costituisce di per sé elemento sufficiente per ritenere che l'associazione non sia più perdurante. Come si diceva prima, ai detenuti delle Brigate Rosse Partito Comunista Combattente viene rinnovato da 20 anni il 41 bis sulla base del fatto che il mero decorso del tempo non è sufficiente per dire che quell'organizzazione non esiste più. nonostante le stesse carte dicano, beh, però i quadri direttivi sono stati smantellati, ma è possibile che in giro ci sia ancora qualcuno. Ovviamente non si capisce, ma quindi cosa ci vuole? Cioè, ci vuole un atto formale di scioglimento dell'organizzazione registrato al tribunale per dire che non esiste più? Non si capisce come si possa fare questo tipo di discorso. È chiaro che quindi in questo modo, se io vado a basare il rinnovo su questo, il rinnovo viene fatto ad infinitum, ma in modo proprio ontologico. Comunque andiamo a vedere i motivi del rinnovo proprio che ci sono più spesso citati. La prima cosa che viene ribadita sempre in tutti i rinnovi è il riassunto della vicenda giudiziaria, cioè tizio è stato condannato per questo, succedeva, eccetera, eccetera, e infatti vi viene dedicato ampio spazio, tra l'altro. Qui nell'ultimo rinnovo che ho sono diverse pagine, insomma, riassume tutto quello che è successo. Poi c'è una cosa che adesso è stata introdotta nelle varie modifiche del 41 bis, c'è l'istruttoria. Cioè l'istruttoria adesso è richiesto che praticamente si assuma il Ministero della Giustizia prima di fare il rinnovo, assuma ogni necessaria informazione presso la Direzione Nazionale Antimafia, gli organi di polizia centrale, quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva. E qui hanno richiesto alla Procura di Roma, alla Procura di Bologna, che erano quelle in cui si erano, diciamo, verificati i reati, alla Direzione Nazionale Antimafia e poi, vabbè, al Ministero stesso, da quello che risultava, insomma, ai loro atti. E vediamo che sostanzialmente le procure e la Direzione Nazionale Antimafia hanno riferito tutti gli stessi elementi. Prima cosa, presente sempre, non si è dissociato. Non si è dissociato, il Ministero dell'Interno non ha fatto una revisione critica, anzi il Ministero dell'Interno richiede e la Direzione Nazionale Antimafia richiedono al carcere le relazioni degli educatori e gli educatori dicono sì, non ci vuole incontrare, non riconosce il nostro ruolo, non c'è una revisione critica e quindi di per sé già questo sembrerebbe, diciamo, adombrare una torsione della norma, perché se lo scopo è quello di impedire i contatti con l'esterno, cosa significa che uno non si è dissociato, che la pensa come al solito? Perché in realtà, questo dall'inizio, quando è stata introdotta, lo scopo di questa norma è costringere da una parte alcuni a collaborare, dall'altra a annientarne l'identità politica per i detenuti politici. Quindi, e questo lo troviamo in tutti, in tutti i rinnovi, in tutte le relazioni delle varie istituzioni interrogate. Poi è carismatico e quindi è un punto di riferimento, e questo perché? Perché ci sono tante manifestazioni di solidarietà ai detenuti politici in cui lui è citato, ricordato, per esempio. Negli ultimi rinnovi ne ho preso uno del 2023 proprio perché ne volevo avere uno dopo la vicenda di Alfredo. Tutte le manifestazioni che sono state fatte per Alfredo, in cui si ricordava che ci sono anche altri tre detenuti politici sottoposti al regime del 41 bis, e tutte queste manifestazioni sono ricordate come prova che lui sia carismatico e che sia un punto di riferimento. Cioè, non che le manifestazioni sono fatte contro il regime del 41 bis, contro la tortura contro la differenziazione, con tutto quello che comporta il regime, no, perché lui, questo significa che lui è un punto di riferimento, quindi ancora di più si vede il motivo per cui vengono disposti questi rinnovi. E poi soprattutto vengono ricordati degli episodi, anche come per esempio è stato detto che in un comunicato di rivendicazione della di quell'attentato che c'era stato a Rimini contro due macchine della Polfer, dopo c'era stato un comunicato di rivendicazione in cui si ricordava anche che ci sono appunto tre detenuti politici sottoposti al 41 bis oltre ad Alfredo, e anche quella era considerato un possibile collegamento degli autori di questa azione con uno che è in 41 bis, probabilmente quando molte di quelle persone non erano forse neanche nate, ecco, comunque erano bambini. Terzo aspetto, l'associazione che è l'unico, diciamo, che potrebbe fare riferimento alla norma, l'associazione è disarticolata ma potrebbe disporre ancora di altri sodali in libertà. Questo è totalmente ipotetico, nel senso che è tutto un potrebbe, sì è vero, disarticolata, però magari, sì magari, certo, nella vita tutto può essere, possiamo disarticolare del tutto l'organizzazione, domani uno si alza e dice adesso la voglio rifondare e contatto mezza salma, ma che discorso è? Chiaramente è talmente ipotetico che sì, certo, io posso camminare per strada e magari mi cade una tegola in testa. Il livello di probabilità è quello, perché è tutto un potrebbe senza che venga indicato un elemento che dia una concretezza a questo potrebbe. Quindi si vede che gli unici elementi che potrebbero effettivamente fondare un rinnovo in base a quello che dice la norma sono totalmente sprovvisti di qualunque tipo di elemento che li possa corroborare. Altra cosa, mantiene contatti con epistolari con i coimputati, udite udite, voglio dire persone con cui ha condiviso chiaramente larga parte della vita, mantiene contatti con loro, che sono il 41 bis anche loro, i coimputati. Quindi voglio dire che grande contatto con l'organizzazione di appartenenza tra persone che sono in 41 bis, che tra l'altro non si possono neanche scrivere, infatti anche queste comunicazioni comunque non arrivano, ecco. E con altre frange con altri soggetti sempre, diciamo, di quell'area, vecchi brigatisti in carcere dagli anni 70, cose di questo tipo, insomma, queste sono i grandi contatti con l'esterno. E qui è evidente l'intenzione di arrivare ad un annientamento del detenuto, cioè una prosecuzione della tortura che viene rinnovata ogni biennio. Nel rinnovo poi a un certo punto c'è una specie di riassunto di quelli che sono gli elementi, e dicono i gravissimi precedenti, l'attuale operatività del sodalizio, che abbiamo visto che è totalmente ipotetica, l'estensione dei collegamenti ad esponenti delle versioni di matrice marxista-leninista e la convergenza programmatica con le tesi anticarcerarie proprie dell'anarco-insurrezionalismo. Sono tutti elementi che rendono evidente la necessità di prorogare il regime detentivo, al fine di prevenire il rischio che costui, nonostante lo stato di detenzione, possa partecipare alla formazione di processi decisionali rilevanti per la vita dell'organizzazione, diramando specifiche direttive criminose. Cioè, ci sono le manifestazioni di solidarietà contro il regime del 41 bis, contro la tortura che esso comporta, con tutto il tema che si è sviluppato dal vaso di Pandora che ha scoperchiato Alfredo, portando molta gente che mai aveva sentito parlare di 41 bis a interessarsi, ad approfondire. Questo secondo loro è un motivo per sostenere che questo manda che dirama specifiche direttive criminose, partecipa alla formazione di processi decisionali. Cioè, capite, voglio dire, il totale disancoramento dalla realtà di queste motivazioni. Poi c'è scritto: d'altra parte il rischio della ripresa del fenomeno terroristico in Italia è sempre attuale anche a distanza di tempo. E allora, se è sempre attuale, vuol dire che sta cosa è inutile che lo rinnoviamo, facciamo una roba perpetua, tanto è sempre attuale, è completamente disancorato dalla possibilità di contatti con i sodali in libertà. Io mi vergogno quasi a dirlo, ma c'è scritto anche che un'ulteriore evidenza della complessità dell'area del consenso al fenomeno eversivo è da rilevarsi nel sostegno manifestato dopo l'arresto al terrorista Cesare Battisti, iniziative di solidarietà al detenuto. Ecco, esatto, non commentiamo nemmeno, vabbè. Comunque tali episodi palesano ancora oggi l'attualità del fenomeno di solidarietà ai detenuti politici. Le recenti iniziative di solidarietà ai prigionieri politici, in special modo ai brigatisti ristretti al regime di 41 bis, hanno evidenziato la partecipazione anche di folte rappresentanze dell'anarchismo italiano. È tutto puntato su questo. E diciamo che si ricordano i presidi fatti sotto le carceri, quello fatto all'Aquila, Nadia Lioce libera, no carcere a tortura 41 bis, difendere le condizioni di vita, libertà per tutti i prigionieri, cioè difendere le condizioni di vita, un classico tema, voglio dire, che vale anche per non solo per il 41 bis, diciamo, e sono tutte le manifestazioni di solidarietà ad essere colpite, tant'è vero che la conclusione di tutto questo discorso è: da tale premessa, l'eventuale annullamento dell'articolo 41 bis al brigatista potrebbe imprimere maggiore efficacia alle iniziative di sostegno e solidarietà ai detenuti, e ciò potrebbe essere interpretato come un nuovo segnale di vitalità delle rappresentanze rivoluzionarie di classe. Cioè, il discorso è, però qui se gli togliamo il 41 bis, questi si ringalluzziscono, pensano che è efficace, che la lotta paga e che quindi bisogna proseguire. Che collegamento c'è con la possibilità che senza queste restrizioni lui possa entrare in contatto con i sodali in libertà e quindi partecipare ai processi decisionali? Si vede che sostanzialmente questo è quello che mi aveva colpito, che dicevo all'inizio, di leggere apertamente che il 41 bis viene rinnovato perché se lo tolgono può sembrare un segnale di debolezza. È scritto qua e non dovrebbe esserci scritto, perché almeno a livello teorico, per salvare, diciamo, la facciata, una cosa del genere lo sappiamo tutti che è per questo motivo, ma che lo scrivano è abbastanza eloquente. E allora la conclusione di tutto questo discorso qual è? Perché è importante un lavoro? Io me ne sono accorto proprio leggendo questi provvedimenti di rinnovo e poi i vari ricorsi e le varie risposte, perché poi questi provvedimenti, nonostante ci siano scritte queste cose, tengono al Tribunale di Sorveglianza e tengono in Corte di Cassazione, dove invece si dovrebbe, diciamo, avere uno scrupolo in più verso la concretezza degli elementi, che il Ministero della Giustizia scriva cazzate, siamo d'accordo, insomma il Tribunale di Sorveglianza e la Cassazione dovrebbero avere un occhio un po' più attento, e invece questi provvedimenti tengono. E allora è importante esaminarli e studiarli proprio per capire, fare un passo ulteriore rispetto a quello che è stato fatto quando c'è stata la mobilitazione per Alfredo. Cioè lì molte persone si sono interessate a capire cosa comportava questo regime, quali erano le restrizioni a cui erano sottoposte, le persone, insomma tutta questa cosa qui. Adesso il passo successivo è necessario capire qual è la base e lo scopo di questa norma anche in relazione alle proroghe, quindi tutto il sostrato che c'è dietro. E da questi provvedimenti viene fuori, si vede che è un sostrato che si inserisce pienamente nel disegno complessivo della repressione, ne fa parte perché allarga a tutta l'area del dissenso, della lotta, dell'analisi di questi tipi di fenomeno, i rinnovi fatti a queste persone, come se le manifestazioni di solidarietà e le lotte fossero legate al fatto che queste persone non intendono mutare regime, non intendono sostanzialmente dissociarsi, che è lo scopo poi finale che questa norma qui ha, di indurre le persone sostanzialmente a dissociarsi o semplicemente a dichiarare, diciamo, la fine del loro percorso. Ecco, questo è un po' quello che mi sembra che venga fuori da questi provvedimenti. Poi chiaramente un lavoro invece fatto meglio, con un po' più di tempo, un po' più di approfondimento, che è sicuramente interessante fare, magari farà venire fuori delle altre cose interessanti da approfondire ancora di più e magari ci farà capire anche ancora meglio il quadro, che è estremamente complesso, di quello che c'è dietro. Queste sono delle prime impressioni che possono essere ricavate dalla lettura dei provvedimenti in modo così un po' più approfondito rispetto a quello che mi era capitato prima di fare sfogliandoli brevemente. Ecco, l'unica cosa che volevo dire è che poi io ho elencato questi elementi. È importante non scinderli, perché sennò si vedono gli alberi e non si vede il bosco. Ecco. Diciamo che per quello che riguarda i detenuti per mafia, la storia la si conosce, insomma, è quello che è accaduto di recente. Totò Riina, tenuto in ospedale, che non parlava, non reagiva, in 41 bis, diciamo, lì è un po' il fatto che era stata anche fatta per quello. Per i detenuti politici, con particolare riferimento ad Alfredo, è lì la questione è diversa, perché ci sono tanti elementi più complessi, nel senso che lì appunto la Direzione Nazionale Antimafia, che qui continua per i brigatisti, continua a ribadire questi elementi, lì aveva dato un parere favorevole nell'ultima richiesta. Il clamore mediatico che c'era su Alfredo si è non se ne sta parlando tanto, per cui quello anche potrebbe diciamo favorire un elemento favorevole. Certo, le ultime vicende sono tra l'altro puzzano, ecco. Quindi sì, non depongono a favore. Ecco, vediamo cosa succede. Sarà interessante eventualmente notare se anche in un eventuale rinnovo, si spera che non ci sia, ma purtroppo non è che insomma mala tempora currunt. Però ecco, sarà interessante vedere se anche lì ci sono tutti i riferimenti alla solidarietà che gli è stata manifestata da più parti, anche perché poi bisogna dire che dei tre detenuti Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente, non c'è mai stata una presa di posizione da parte di professori universitari, di giuristi non legati, diciamo, agli ambienti politici, quindi lì è stata un po' una situazione particolare, per cui sono cose un po' presenta degli aspetti diversi, quindi sarà interessante vedere cosa succede. Naturalmente speriamo che non venga rinnovato, però appunto i segnali degli ultimi tempi non sono i migliori. In attesa di altre domande volevo solo approfittare per dare un'informazione di una situazione che può essere anche abbastanza simile a quella che è successa o sta succedendo per i detenuti prigionieri in 41 bis in Italia, in isolamento, o di altre lotte che interessano il mondo carcerario, la prigionia in generale. Un'esperienza abbastanza significativa e forte è la lotta che stanno portando avanti da ormai decenni nelle carceri in Turchia, i prigionieri rivoluzionari dell'Anatolia, della Turchia, e nello specifico in Turchia c'è stata una trasformazione un po' simile a quella che è avvenuta in Italia, cioè un aumento del carcere speciale basato sulla differenziazione, sull'isolamento, sulle forme di tortura, rompere quella che era stata anche una forza, no, che avevano i prigionieri all'interno delle carceri, che si manifestava in diversi modi, dalle rivolte ai momenti di presa proprio collettiva all'interno anche delle carceri, dalle evasioni. E il rapporto, no, quello che si diceva anche prima, no, di rompere questo rapporto fra l'interno e l'esterno, di isolare sempre più i prigionieri, è avvenuto in Italia, le carceri speciali, l'articolo 90, fino ad arrivare appunto all'alta sorveglianza, l'alta sicurezza, il 41 bis, e così lo stesso in Turchia, hanno nomi diversi, si chiama carcere F, adesso si chiamano carcere S, R, Y, cioè dei carceri in cui sei da solo, sei isolato, sei chiuso 23 ore al giorno, non hai contatti, hai difficoltà a avere contatti con l'esterno, la socialità è ridotta, eccetera, eccetera, no? Le cose che conosciamo, che sono appunto simili, e anche lì c'è un forte movimento di lotta, di protesta, e questi compagni hanno essenzialmente utilizzato, visto che sono isolati, che sono separati dal resto dei detenuti e dall'esterno, la forma dello sciopero della fame. Negli anni passati numerosi compagni e compagne sono morti durante questi scioperi della fame, e dai compagni dell'Anatolia ci segnalano che ci sono, nello specifico in questo periodo hanno utilizzato una forma di, loro sono centinaia di prigionieri, nelle carceri turche e fanno degli scioperi della fame a staffetta di durata molto lunga, e attorno a questi, a questa forma di lotta anche individuale cercano di costruire anche dall'esterno un'informazione, mobilitazione, solidarietà e appunto rompere l'isolamento e permettere che queste compagne e questi compagni escano da queste forme di questi circuiti carcerari di tortura. E, tre di loro ieri sono stati, che erano in sciopero della fame, beh, i nomi sono difficili, si chiamano Taksim Sagaltici, Gurkan Turkugoglu, che sono in sciopero della fame da 260 giorni, e un altro compagno si chiama Hussein Ozein da 230 giorni. Sono stati portati di forza in ospedali per essere sottoposti all'alimentazione forzata. L'alimentazione forzata è un'altra forma di tortura. Prima mi si ricordava che era una forma che era stata anche rispetto alla situazione durante la lotta di Alfredo, dello sciopero della fame, c'era questa problematica, no, di che venisse sottoposto all'alimentazione forzata contro la sua volontà, e dunque c'è una mobilitazione, una forma di solidarietà rispetto a questa lotta che stanno portando avanti contro l'alimentazione forzata, ma essenzialmente per sostenere le rivendicazioni che questi compagni che stanno portando avanti, che sono condizioni che appunto si vivono in Italia, i prigionieri in Italia, si vivono negli altri paesi d'Europa, in Germania, Irlanda, Francia, Paesi Baschi, Spagna, un po' in tutto il mondo, sono condizioni simili. Dunque c'è anche un'omogeneizzazione sia delle strategie dello Stato di annientamento dei prigionieri, sia appunto legislative, ideologiche, no, di annientare sia i prigionieri, con loro annientare anche una possibilità di cambiamento rivoluzionario, no, di lotta. E vabbè, dunque era anche per ricordare questo, che è importante le cose che sono state dette, no, rompere l'isolamento. Dunque la lotta che ha portato avanti Alfredo è stata secondo me importantissima anche sotto questo aspetto, no, che ha rotto un isolamento, ha fatto mobilitare tantissime persone, ha allargato una riflessione su quello che è la tortura del 41 bis, su quello che è il sistema carcerario, e dunque anche l'importanza, come le iniziative di oggi, la ripresa anche della mobilitazione che sta avvenendo, e un occhio anche a guardare quello, cioè che non è una condizione solo locale, ma una condizione generale, dunque trovare anche dei rapporti, delle sinergie con altre realtà che si muovono nella stessa direzione. E appunto la cosa migliore è la lotta, uscire fuori, dunque le manifestazioni, i presidi, le iniziative all'esterno, e tenere insieme un po' tutto, no? Prima si ricorda, adesso dico l'ultima cosa, che si ricordava anche la questione, nei prossimi giorni ci sarà l'iniziativa a Roma per Alfredo, cioè sono le giornate che parleranno anche dei prigionieri palestinesi. Molto spesso si tendono a separare, no? C'è il prigioniero palestinese, c'è il prigioniero di un'altra nazionalità, di un altro paese. Penso che uno sforzo da fare è parlare di, cioè, è unire invece le varie condizioni, no? Cioè, superare anche questi steccati, vabbè, certo solidarizzando con i prigionieri palestinesi in primis, però quando parlare dei prigionieri palestinesi, parlare anche dei prigionieri italiani, comunisti, anarchici che sono nelle carceri oggi in Italia, e fare un fronte comune per la loro liberazione. Lo Stato si è attrezzato moltissimo, ieri c'è stata una sentenza anche abbastanza molto grave, no? Quella di Ahmed di 4 anni per terrorismo della parola, no? Dunque che il compagno avvocato dice è condannato perché è palestinese. Dunque essere palestinese oggi per noi è essere una persona che resiste, che lotta, e chi resiste, che lotta viene condannato, però ci rimane solo questo da continuare a lottare. Faccio una domanda da qua che devo essere rivolta a tanto tempo. Ma l'Iter come sarà? Ci sarà il rinnovo e poi le motivazioni arriveranno dopo 90 giorni? No, il rinnovo, il rinnovo contiene le motivazioni. Beh, viene notificato al detenuto, viene notificato il rinnovo, se c'è il rinnovo, con la completo di motivazione. A quel punto si può fare il ricorso al Tribunale di Sorveglianza ed eventualmente poi alla Cassazione. Lì i tempi si allungano un po', nel senso che poi a questi ultimi che sono stati fatti, che ho qui, ti posso dire che il rinnovo è stato fatto nel del 23, era il 29 agosto 23 arriva il rinnovo. La sorveglianza decide il 13 gennaio del 24 e la Cassazione decide il 4 giugno 24. Quindi vabbè, lì poi possono cambiare un po', però diciamo che l'iter si avvicina intorno all'anno per esaurire tutti i ricorsi. Però le motivazioni escono subito, il rinnovo viene già fatto con i motivi. Allora, verso la chiusura, appunto, come si diceva prima, dato che queste sono giornate di mobilitazione anche per i prigionieri palestinesi, effettivamente per Ahmad è stato condannato a 4 anni per terrorismo della parola, tra l'altro in un ricatto, cioè che è stato colpito dalla repressione in vista della commissione per i documenti, per richiesta di protezione internazionale, quindi è stato colpito dalla repressione proprio in un momento, come si sa, cioè attraverso un ricatto che avviene attraverso i documenti. Quindi anche per lui, insomma, la volontà è quella di rilanciare, di parlare di tanti prigionieri palestinesi che ci sono sul territorio italiano, perché Ahmad non è l'unico, sia di prigionieri palestinesi e anche che sono stati colpiti dalla repressione a seguito di mobilitazioni per la Palestina, quindi sia Anan, ormai per fortuna non più Ali e Mansour, Tarek e quant'altro. E queste sono giornate in cui appunto ci sono mobilitazioni per i prigionieri palestinesi che sono strettamente interconnesse, perché sappiamo come lo Stato, il governo italiano sia totalmente al servizio di quello sionista e anzi venga istruito da quello sionista, soprattutto in materia di repressione e di sicurezza. In vista invece volevamo rilanciare, oltre a se ci sono delle idee, delle suggestioni per i tempi a seguire, ma soprattutto volevamo rilanciare il presidio del 4 di maggio, che ci sarà appunto in Piazzale Cadorna il 4 di maggio alle 18:30, e in vista di quello, dato che sappiamo che magari assemblee come queste così tanto allargate peccano un po' magari di timidezza, e ci sta, però in vista del presidio del 4 di maggio ci sarà un'assemblea mercoledì prossimo, che è il 22 di aprile, alle 20:30 in panetteria. Quindi chiunque volesse venire, l'assemblea diciamo accoglie, quindi mercoledì prossimo. E invece sabato questo, giusto? Sì, sabato questo ci siamo? Come, ok. Ci sarà invece a Piazza L'Argentina, se si volesse scendere in piazza con uno striscione o addirittura uno spezzone per Alfredo contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, sarebbe ovviamente un'interconnessione delle lotte che già esiste, soprattutto in tempi come questi, in tempi di guerra, che già esiste, ma che sarebbe bello concretizzare anche, soprattutto e questo per rilanciare, per dare voce e soprattutto per portare con orgoglio quelle che sono le lotte che i compagni, sia che sia Alfredo, sia compagni al 41 bis, ma soprattutto anche i compagni palestinesi, portano avanti, appunto come si diceva prima, per non cadere diciamo nella sconfitta, ma invece rilanciare e dar voce ai valori in cui credono i compagni. Quindi l'invito è soprattutto per il 4 di maggio, per il presidio che si terrà, dato che in quei giorni appunto verrà rinnovato o meno il 41 bis ad Alfredo, e poi soprattutto anche l'assemblea di mercoledì prossimo alle 20:30. In generale, se non ci sono altre domande o suggestioni o considerazioni, ringraziamo tutte e tutte per essere state qui stasera, e ci vediamo in piazza e altrove.